e sta arrivando alla grande, non c'è problema. Cioè, che ci ha fatto un affare, ha comprato tutto su Amazon, 83 euro, baracchina, antenna con la base magnetica, e va benissimo, cioè arriva bene a casa, si sente proprio bene, vabbè io sono più, forse linea d'aria più vicino, però arriva abbastanza bene perché lui ovviamente la bassa a livello del rifornitore, capito? Infatti, vedi tu, fai uno più uno, qua mi arriva 9, quindi ne ho ricezione, e se 9 arriva qua, te l'ho già detto, infatti gli ho fatto anche i complimenti. Sì, ha fatto un affare, ha detto che è anche un apparecchio che ha diverse cose, è piccolino però, è piccolo ma sincero quell'apparecchio, mi ha detto la marca ma non so ripetertela perché non lo conosco come marca, però va molto bene. Va bene, no, va bene, va bene, ti ho già detto, ti ripeto, ti ho fatto i complimenti, quindi ottimo per la truppa, andare, niente, già mi allontano un attimino, lo sono già lì, che ore sono, 19:25 quasi, faccio uscire un po' il cane, lui come vede che c'è freddo, è tutto dappato, ancora non è uscito anche a fare la pipì, avanti un beso, io vai fuori, se no poi quando sto cenando si mette davanti alla porta e vuole uscire. E io l'altra volta sono dovuto scendere con lei a portare appeso perché si sta veramente, la faccio che cacchio c'ha, mi sono occupato in pigiama, mi sono messo giù un botto e siamo scesi giù a portarlo e dovevo fare un po' di cacca poi nella diarrea. Poverini, quando sono così e fortunatamente ci avvisano, no, anche Filippo si mette davanti alla porta e se non gliela apri stacco la zampa e mi graffia tutto il vetro, e allora già me ne accorgo, però lui c'è qua, non mangio di buon nudo, gli apro la porta e esce, dai, adesso lo faccio uscire, sentiamo dopo se ci siete. E io già avevo una passeggiata, dai, penso che vai anche tu, o lo fai uscire solo da solo? Io vado, andiamo all'ugrio, gli apro la porta e esce nel giardino. Ah, ok, andare. Mattarino, ci sei ancora? Sì che ci sono già. E io, già cenato? No, sto cenando, la pizza mi ho ordinato. Già va bene. Poi tu c'hai lì il via Rosello, quello che fa le pizze, che adesso non si può più ordinare, non solo al computer lo puoi ordinare. Beh, al telefono non ne prende più ordinazioni. No, Obelix, l'ho ordinato. Ah, Dani Marocca. Sì. Campagna. Te la portano a casa, si arriva a casa. Sì, signore. Già va bene, allora. Io l'altro giorno ho ordinato 4 pizzette al taglio, 6 pizzette al taglio. E siccome a me piacciono molto le pizzette al taglio, cazzo mi hanno mandato tutti quanti bruciati all'interno. Elena voleva telefonarli per dirglielo, ho detto lascia perdere, facciamo i signori, non vanno i bubbi e basta, che cosa sei di mio? No, io le avrei prese, portate e fatte vedere come erano le pizze dentro, se sono pizze da mandare non se ne è accorto che erano bruciate. Ma sono andabibili in chibi. Avanti, buonasera. Oh, buonasera a tutti ragazzi. Ciao da Scuscio che rientra dopo circa 20 anni sulla modulazione. Ben trovati a tutti. Chi sei Guscio? Ti sento la modulazione però un po' satura. Cosa c'è? Vieni ad attaccare. Il fratello di Andrea. Guarda così. Chi sei? Fratello di Andrea? Sì, fratello di Andrea, noto malinteso. Kappa, dai. Mi hai sentito, dai, non ti avevo ancora sentito. Adesso almeno ci sentiamo. Con Andrea ho parlato diverse volte, ma con te non mi ero mai sentito. Dai, sei arrivato con Santiago di Sette qua a Sassari. So che sei da Itti che stai modulando, se ne confermo. Sì. Ma infatti vi volevo chiedere un'informazione perché non mi ricordo più niente, ma non vi volevo interrompere, quando avete un minuto di pazienza se mi potete seguire un attimo. No, vai tranquillo che noi siamo qua anche per aiutare le persone, non c'è problema, dici pure se possiamo dare un consiglio, te lo diamo volentieri. Allora, siccome sto usando il tornado 4500 che ho chiesto 4 provando ad accorciarmi l'antenna, però sul rosmetro che c'ha il Tornado 4005 non mi ricordo se le stazionarie me le segna l'SWR o l'SRF. È una stupidaggine, me ne rendo conto, ma non me lo ricordo più. SWR le stazionarie sono. Oh, perfetto, quindi io in questo momento sto uscendo con stazionario neanche a 1. Buono, adesso ho migliorato la radio, cosa fate? Staccate il lineare? No, l'ho staccato, aspetta che lo stacco adesso, però mi sposto di canale e provo a riaccordare l'antenna, così mi date un controllo. Se alzo pochissimo sto quasi in saturazione, vero? Sì. Sta riuscendo anche a migliorare la radio. Ok, quindi se lo tengo così forse va bene. Aspetta che mi sposto, accordo l'antenna senza lineare e poi vi faccio una chiamata. E poi mi dici che lineare stai usando. Ciao, papà di Natalia. Sì, non lo sento io, l'amico. Ah no? No, io già lo sento. È da Itini, mi pare che sia. Nel paese comunque, non è il caso, Itini, io dico la zona lì. Ha detto che adesso sta accordando un lineare che c'ha, ma deve essere un lineare grosso perché è passato da 6, è arrivato a 9,5, roba del genere. Cosa? Da Tisi. Vabbè, Tisi, Usini, nel paese. Come si chiama l'amico? Giuseppe, non mi sentivo strano, guarda. Giuseppe, cosa? Sì, ci sono, ma mi sono raccontare l'antenna. In che senso? Adesso ti sei abbassato di un radio, c'è qualche cosa nel microfono, perché a un momento... No, stazionale... Ho chiuso il microfono. Non esco bene. Non ho capito. Ho molte stazionali, non riesco a uscire bene. Ah, Lascia il microfono. Mi sposto un attimo, torno subito. Avanti, Natalino. Aspetta un attimo che sto facendo cosa. Cristian, ti avevo chiamato due volte poco fa e non hai risposto, cosa stavi combinando? Sì. Scappa. No, stai uscendo malissimo. Non si capisce cosa dici adesso. Allora io a tuo fratello gli ho consigliato un'antenna, la Venom, costa poco, è una 5 ottavi, ti fa uscire bene, e stazionaria non è là, è una bellissima antenna, piccola, non è grande da piazzare, ce la puoi mettere solo anche su un palo di televisore, la qualsiasi cosa. Ti metti una di quelle antenne e vai alla grande, la mini boomerang non è mai andata bene, la boomerang grande va bene, ma la mini boomerang proprio... Lo so, ma questa avevo e adesso correrò ai ripari, dai. Come microfono sto usando l'MD4. No, la radio esce bene, te l'ho detto, esce bene la radio, però a volte si abbassa di colpo oppure esce tutta distorta. Sì, mi guarda, adesso ho riacceso il lineare, adesso mi sta curando un altro ti mangia tutta la radio. E adesso abbasso ancora un po' così. Va bene così, va bene. Ma qui stai facendo sì di segnale, però la radio è bella forte, deve essere l'hai anche modificato quel microfono perché esce forte. No, è l'MT4 originale, aspetta che abbasso un po' il volume, adesso com'è? No, va bene, esce bello forte. Ma lo potevi lasciare, andava bene. Dai, la lascio così allora, dai, se mi senti abbastanza bene, e non posso pretendere più di tanto, c'ho la MP4, cioè c'ho la mini boomerang buttata sul terrazzino, attaccata a un paletto così e basta. Ehi, ho capito, ma te l'ho detto, puoi rimediare, guarda, segnatelo, Venom 5 ottavi, e poi vai a vederla. È un'antenna che ha un amico, esce da tutte le parti, Portatore, Sarghiero, da tutte le parti ha visto. Sì, ma me la prendo sicuramente. Adesso l'ho ripristinato dopo veramente 20 anni. Io facevo un modulavo con tassativo. Packet, prima era uno fissato, era tutti i giorni attaccato, ma sto parlando dei tempi di Falcone. E vabbè, anch'io c'è una scatola di quel sede a casa, anche l'altro giorno ho parlato con le Tenerife. Sì, che dei tempi, cavolo, bellissimo. E beh, non te lo ricordi Gianni doppio rum? Certo che me lo ricordo. E sono io. No, vabbè, voglia. Io ero sguscio sempre, mi pigliavano tutti per il culo per questo nickname. Ma ero ragazzino, avevo 16 anni, 15 anni, però ho modulato sino ai 20 anni, diciamo, 20-22 anni, un bel po' di anni, con Consuelo, con Bambolina, con tutti quelli. Cappa, e vabbè, con tutti quelli, me li ricordo tutti. Sì, no, non c'è problema, me li ricordo benissimo. Io ci sono oltre 40 anni, frequenza, quindi immaginati tu. Cappa. Con chi eri Gianni prima che ti ha rotto parlando delle pizzette al taglio, perdonatemi? No, ero con l'Attalino, ma sta facendo roba. C'era anche Cristian, ci sei. C'era anche io, Chiara. Salutamolo, frate mio. Ti saluta Cristian, Giuseppe. Grazie, l'ho sentito stasera, abbiamo fatto un po' di prove questo pomeriggio con mio fratello, però adesso io non lo sento. Ma dimmi una cosa Gianni, ma Natalino? Natalino, Alfa 1. Non lo so se mi copia. Natalino non ti sente. Io sento, è messo a QRM adesso. No, io lo sento Santiago, sì, la radio è bella forte. C'è anche l'antenna, scusa. Giuseppe. Dimmi. Il lineare, che c'è sempre, che voglio dire, che lineare stai usando? No, guarda, è un 737 della CDE. Ah, 737, io avevo 747 da 100 watt, quello quanto dà? Teoricamente anche questo 100, ma non lo so quanti watt dà, però un po' mi aiuta, dai. Allora, il 747 non ti fa distorcere, perché hai finali a MOSFET. C'è il 747 e il 767, che sono... il 767 era da 150, mi pare. E vanno bene, perché hanno i finali a MOSFET, quelli che hanno fatto dopo, capito? Non ti fanno distorcere, ti fanno uscire forte, ti aumentano anche la radio. Ma considera che adesso io ho la potenza di uscita anche del microfono e del watt, ce l'ho a metà, Però come mi hai detto tu, quindi me lo tengo, diciamo, a metà, così già va bene. Cappa. Mio, dai. Cristian, ti ho copiato adesso, sei in barra mobile. Cristian a casa non ne hanno, c'è una sola barra mobile. Dovrà piazzarla alla stazione, ma ancora non l'ha fatta. Cappa. Vabbè, dai, se rientriamo un gruppettino già ci si diverte, almeno ci si fa compagnia. Peccato che durante il Covid non c'avevo nulla, perché avevo tutto in una casa in paese, quindi non sono riuscito a ripiazzarmi tutto. Adesso Valentino, mio fratello, se l'ha comprato uno, ha detto no, io ripiazzati tutto, sto provando, ieri ho piazzato tutto, ma al volo proprio così, non c'ho più nulla, prima c'era attrezzato come si deve, avevo il 140, l'accollatore, tutta una serie di cose, poi sono passati 20 anni, si può dire. Beh, io sono stato 10 anni, non proprio fermo, perché ascolto, lo facevo sempre, quei buchi che c'erano la domenica, li ascoltavo, erano due persone, tre al massimo la domenica che entravano, li ascoltavano portatile, ma non entravo mai, ascoltavo e basta. E poi mi sono deciso, mi sono piazzato un booster di quelli per caricare la batteria, ce ne presenti. Quello lì facevo andare il malacchino lineare. E poi mi sono fatto una bella stazione. Diciamo che c'ho tre apparecchi base, poi ne ho diversi degli apparecchi. Alimentatori, tutto qua. Anche io c'avevo un sacco di roba, c'avevo veramente, a parte le antenne, chi usciva di più, chi usciva meglio, però vabbè dai, diciamo che poi io mi ero dedicato di più al packet con le BBS, ed era bellissimo anche quello, ricevere la posta, fare DX tramite computer e poi telefoni, internet e tutto, se è passato tutto. Vabbè. Però dai, tutte le diamanti, è sempre bello rientrare ogni tanto. Io dico che se ne ho una scatola conservata da Londra, da tutte le parti dove ho parlato. Una scatola piena di queste. Capo, io addirittura ho un'amica che poi ci siamo sentiti e ci sentiamo ogni tanto su internet, che abita in Messico, che l'ho conosciuta in radio, figurati, anche ne ho fatto diversi. Quando, dove abitavo io prima, Sassari, in propagazione, anche con vuoto, eccetera, cioè arrivavo veramente in casino, veramente tutta la notte prendendo appunti di coordinate del PO Box per inviare le lettere e tutto, e mi sono arrivate diverse, bello, dei tempi. E io c'ho lo stesso registro dove segnavo tutto, c'avevo un registro di stazione dove ti segnavo da dove parlavi, che c'era la Bibbia, che era entrata, che era per andato, tutto. Ma guarda, io quando è 2 anni l'anno scorso mi ero informato all'ARI qui a Sassari per prendermi la patente di radioamatore, e l'avevo contattato, mi hanno detto no, io vieni, ti facciamo il corso, fai l'esame, e invece esatto, mi sono trascurato, non l'ho mai fatto, ma secondo com'è con Valentino, ci mettiamo insieme, lo studiamo e ce lo prendiamo. Poi adesso è facile, si fa tutto online, non si va più a casa, si fa tutto online. Sì, ho visto, non c'è più neanche la differenza tra ordinario, mi sembra, e l'altro, non c'è neanche il CV doppio, non c'è più nulla, è giusto qualche elettrotecnica, propagazione, antenne, un po' di elettronica, e poi cioè già si deve studiare, però meno rispetto a come era prima, là. Kappa, e vabbè. Ma diciamo che io preferisco qua la verità, vabbè, poi dipende sempre dal modo di pensare, di vedere le cose, uno che parla di amatore deve saper parlare le lingue, deve sapere, io preferisco qua perché diciamo mi arrangio un po' col francese, qualche cosa in spagnolo, ma non è che sappia parlare chissà che cosa. Io sono umile, dico le cose come sono. Sì, no, ma guarda, ti dico la verità, io mi era sempre piaciuto prendermi la patente di radioamatore perché c'era più gente con cui parlare, ti dico la verità, perché anche in quegli anni lì c'era stato un buco di un paio d'anni dove veramente eravamo in 3 o 4, invece bene o male nelle frequenze radioamatoriali c'è sempre lo zoccolo duro che rimane un po' in tutta Italia, in tutto il mondo, cioè verso quella frequenza c'è sempre qualcuno all'ascolto, capito? Mentre qua, insomma, qualche volta c'è stato un po' di buco anche negli ultimi 10 anni, come dici tu, ogni tanto anche io accendevo, ma non sentivo QRM e basta, cioè non modulava nessuno. Ehi, vabbè, non ti credere che se le bande radioamatoriali siamo piene, anche lì la gente sta mancando, anche perché muti erano anziani, sono muti, e quindi la frequenza un po' si sta, diciamo, svoltando, ma qualcuno sta entrando nuovo anche lì, ma dipende sempre dal modo di pensare. A me, io qua sto bene perché posso parlare di tutto tranquillo, non ho limiti di nulla, naturalmente sempre nelle maniere dovute, però si può parlare un po', diciamo, se devi fare scherzare, io lì non ne ho mai sentito scherzare, e sono troppo seriosi, mi hai capito, ripeto la nomina tipo 50 volte, fare un passaggio corto, non si può fare una discussione come si vuole. Ma stai dicendo già? Quello che pensi. Stai pensando male, questo vuol dire che non ascolti. Già, cosa intendi tu per frequenze amatoriali? Le VHF e le UHF. Le VHF e le UHF per noi sono come la 27. Noi in diretta 525 scherziamo e diciamo un sacco di stronzate. È chiaro, se tu vai a parlare in HF si parla diversamente, ma cosa vuol dire non c'è nessuno in banda amatoriale? C'è tutto il mondo in banda amatoriale, Gianni. Non confondere le HF con le VLU. Le VLU per noi sono a livello locale dove stiamo trasmettendo. E ci divertiamo, scherziamo, diciamo un sacco di fesserie, un sacco di transate. Cosa vuol dire? Non è quello il problema. Poi le bande amatoriali, ricordi che sono le HF, non le VLU. Le VLU sì, sì, in banda amatoriale, ma è come una banda cittadina, la diretta delle V e delle U dove trasmettiamo noi, capito? Non è assolutamente vero, non c'è nessuno. Cazzo, se tu vai in 40 metri, 20 metri, 15 metri, 10 metri, in 50 media, da tutte le parti c'è gente. Le V e le U sono per noi a livello locale, ricordatelo, come tutti i punti che si trasmette per avere la distanza per poter trasmettere, ma c'è gente come me, come tanti altri, che arrivano anche in diretta e quindi si parla normalmente come parli qua. Io non mi attivo, dico una volta solo, ma due cadde di volte ripetendo sempre la stessa cosa. Questo è Giuseppe da Ugine, vero? Giuseppe, tu sei fratello di Andrea. Sì, ciao, da Pizzi. La cosa era come? Di Santiago 8 qua, S8 radio 5, c'è un po' di propagazione ma comunque riesce a passare abbastanza bene. Ciao Claudio Sparviero da Sassari. Sparviero, Claudio Sparviero. Io l'ho venuto a vedere un po' ieri. È sempre mitico, non si muore mai, dal 1974, siamo sempre qua, e anche là, da tutte le parti, ovunque c'è gente si va a fare due chiacchiere. Mi stavo ascoltando e sto facendo alcuni lavoretti con istanza, e sto ascoltando sia voi che i miei colleghi radioamatori in VNU. Tutto qua, va bene, è un'opinione Gianni, la tua è sempre quella, non ti sei mai spostato, però sappi che tutti quelli a 27 penso che quest'anno facciano il salto di qualità, facciano il salto di qualità, so che ce ne sono già tre che parlano qua su 10, che si stanno preparando e quindi andrà ancora a svuotarsi la 27, è giusto per farti capire che non è detto che uno debba rimanere solo qua, rimane qua e parla qua e parla anche da altre parti, non è quello il problema già. La tua opinione per carità va rispettata. Claudio, non so che 525 avete un canale monitor, io sto parlando di altre frequenze, non lì. Praticamente dove si parlano le lingue inglesi, io ho detto questo, sono che cosa me la prendo a fare, a parte se non so parlare certe lingue, russo, tutte queste cose, bisogna saper parlare anche le lingue per frequentare certe frequenze. Io, vabbè, quando avevo l'altra parte, tu ben sai, andavo lì su 7000 eccetera eccetera e ascoltavo, ho ascoltato, non mi piaceva come facevano passaggi curti, ripetevano tante volte nominativo, passaggi corti, era serioso, certo come lo fate voi come la 27, però cosa mi prendo la patente per parlare come la 27, tanto male che rimango qua. Sì, già, ma scusa se insisto sul discorso, ma cosa tu pensi, che io sappia parlare le lingue o che tutti sappiano parlare le lingue? Nessuno è nato imparato, ti difendi come puoi, se c'è un country che ti interessa, russo, uno olandese, uno... basta che ti fai capire, se dai le coordinate, nominativo, poi esiste il computer Gianni, noi radioamatori siamo tutti collegati su corretta.com, quindi basta che vai lì e cacci la carta d'identità, capito? Perché una volta che tu mi dai il nominativo, io vado su corretta.com e mi accorgo se sei un radioamatore o se sei un radioamatore, chi sei, con chi sei, 76, che fa 36, capito? Non deve avere nessuna paura, perché Roberto si sta difendendo molto molto bene, sta imparando tantissimo, sta facendo dei bei collegamenti, quindi non è che si debba mettere a parlare la lingua russa o la lingua tedesca o la lingua... Tu l'italiano parli, e parli in italiano, se ti vuole capire ti capisce, e se no c'è la biglia in gomma di Bossa Ma, cosa di Nafutti. Vai Giuseppe. Sì, sì, ma guarda, ti ripeto, io sono interessato alla patente, anche perché faccio parte di un nucleo di protezione civile, eccetera, particolare, sono pilota di droni, istruttore di volo, quindi mi servirebbe anche ecco, per alcune cose. Avevo contattato Antonio, che tu sicuramente conoscerai, che è stato mio collega all'università, mi aveva indirizzato un po', forse siamo un po' persi di vista, però mi sono sempre ripromesso che è un percorso che voglio fare, ma semplicemente anche per una soddisfazione personale, non per aspirare a fare chissà quali collegamenti o altro. Però dai, è una cosa che mi piace. Infatti non è che uno aspira a diventare vantaggio perché deve fare i collegamenti in inglese, in francese e in tedesco, fa i collegamenti che le piace fare e usa la radio come negli anni l'ho sempre usata io e non me ne affutti nulla a mezzi anni come lo usano gli altri. Io penso a me, perché se devo fare un collegamento lo faccio lo stesso, se non devo farlo non lo faccio, ma a livello locale ti diverti, fai, chiacchieri, insomma. E poi chiaramente sempre l'uso e la detenzione delle radio che uno ha più sicurezza, più tranquillità, più tutto qua. Io l'ho sempre pensata così, a me nessuno mi ha mai sentito dire che sono un radioamatore a livello di chi tu sai, perché non lo sarò mai, non mi interessa niente. Ripeto, ognuno fa radio come vuole, come crede, come vuole lui. Si rispettano sempre i pareri degli altri, si rispettano sempre quello che uno ha e quello che usa, tutto qui Gianni, capito? Io così, io la patente l'avevo presa non per essere un DXC a livello mondiale, perché non ci sarei mai arrivato e non ho mai fatto, a differenza di altri che sono ben preparati, che tu ben conosci, ma l'ho fatto per la sicurezza, perché io sono cambodiano dall'86, quindi non ho mai voluto rischiare che qualcuno venisse a rompermi le palle, e quindi soprattutto quella mi è servita per fare un salto di qualità, ma soprattutto per la detenzione delle radio, no? Avere la sicurezza che nessuno venga e ti rompa l'anima, capito? Tutto lì già, non è detto, tutto qui. E vabbè, io non la vediamo di sopra, se a te piace non c'è problema. Avanti Giuseppe. Comunque, cosa c'ha scatti con lineari lì? Alle marce? No Gianni, sto smanettando sul potenziometro della radio, che là quindi ridurre un pochettino di watt e aumentare qua, diciamo che il segnale in uscita, che poi a sua volta viene amplificato. Beh, c'era anche Andrea, mio fratello, all'ascolto, però mi sta dicendo che ha l'antennino piccolo, quindi non mi sente bene, non mi sente piccolo, cioè o meglio mi sente da lontano, perché non gli arrivo bene, voi sicuramente già lo sentite. Claudio, ti disturbo due secondi, da un punto di vista della normativa invece, so che sono cambiate un po' di cose qua per la 27, e per la banda radioamatoriale invece è rimasto tutto com'era, vero? E cioè, a parte l'educazione, eccetera, eccetera, ma proprio a livello di autorizzazioni, di iscrizioni alle varie aree, eccetera, eccetera. Stai dicendo a me, Giuseppe? Sì, sì. Sì, ci hanno assegnato altre frequenze in più, come i 70 mega, hanno potenziato la parte della potenza, ma le normative diciamo sono rimaste sempre quelle. Il bollettino annuale è sempre da 5 euro, le iscrizioni per le varie sezioni ARI sono sempre quelle, è aumentato un pochino. Anno sono intorno, mi pare, a 80-85 euro all'anno, hai anche l'assicurazione delle antenne, hai, insomma, sei un po' tutelato, però diciamo che non è cambiato niente, ci hanno solo dato un po' di frequenza in più, il basso è un po' più alto rispetto ai watt che potevamo usare prima, adesso se ne può usare un po' di più, tutto qua. Cata, invece qui per la 20... Qui per la? Qui per la 27, so che non ci vuole più autorizzazione, non ci vuole più niente, è diventata libera, come un po' come i PRR, i PNR, come si chiamano, le luoghi che... Ma la 27 è il pascolo bravo, ognuno fa quello che le piace, quindi io l'ho sempre pagata, sino a quando mi hanno detto no, non pagava più. C'ho una cassetta dei bollettini da sempre, quindi per quanto riguarda il PMR in uso le frequenze, quelle canalizzate, con chiaramente la potenza dovuta dallo statuto delle telecomunicazioni, che mi pare che sia 500 mW, ma non c'è nessuno che usa 500 mW, anzi usano le antenne uguali alle nostre, quindi ben venga tutto, ti ripeto, ognuno deve fare quello che vuole a casa sua, poi se l'avrà arrangiato a me, Giuseppe, da un orecchio mi entra, dall'altro mi esce, io penso a me, ho preso anche troppi colpi, quindi io preferisco già da tempo farmi i fatti miei e non mettermi in mezzo ai fatti nessuno. Avanti Gianni. Sì, vabbè, così infatti, se ne prenderanno le conseguenze chi fa queste cose. Cabagama. No, ma adesso Giuseppe non c'è più bisogno né di pagare concessione né di fare la concessione, né di pagare il bollettino. Anche io ho tutti i bollettini conservati, sì, quando c'è stato il... Solo che il problema è che quando lo metti in macchina, se ti ferma qualche pattuglia e non sa che c'è questa legge qua, ti può fare studio, capito? È quello, bisognerebbe portarsi la legge appresso. La legge nuova che bisogna stamparla e portarsela appresso e metterlo su internet e cercarlo, di modo che se tu lo metti in macchina l'apparecchio sei tutelato, perché vi fa vedere la gazzetta ufficiale che cosa dice e non possono parlare, perché non so se sono informati tutti. Capa, ma la sua posta funziona ancora? Senti ancora? Break, 10, break, mi sentite? Sì, che ti sentiamo Andrea, un attimino, che sta parlando Giuseppe. Sì, sì, esiste ancora, dai. Avanti Andrea. Sì, buonasera a tutti, oggi sono in condizioni ancora più precarie. Sgucio, ti sento lontanissimo, ma non penso che tu mi senta. Ti sento piccolino, brother, però ti sento, mi arrivi, Ma mi arrivi anche tu, beh, ben sentito allora. Ciao a tutti, ciao Sparviero, ciao a tutti. In condizioni precarie, sei 9.25, che cosa hai fatto? No, se vedete, allora mia moglie mi stava rompendo le scatole perché stavo rovinando la cosa della finestra, non la guarnizione, e l'ho appeso a testa in giù l'antenna magnetica nel coso della fenda, ce l'hai presente il bastone magnetico? Cappa. Stai arrivando più forte, ma molto più forte di ieri. Grazie. Probabilmente questa posizione è favorevole di più per me. Quanto lo senti tu, Claudio? 9.25, Claudio. E deve essere, sta parlando là. Avanti Giuseppe, tu come lo senti? Io ce l'ho Santiago 1, Radio 2, ce l'ho proprio piccolino piccolino, però non posso pretendere nulla. Adesso prendiamo questa Venov che ci hai detto tu, e uno dei due la prova e poi vediamo un po'. Io ho paura qua di disturbare le antenne dei vicini, perché sono a livello di antenna, ce l'ho. No, se la metti più in alto, la devi mettere almeno un metro più in alto dell'antenna del televisore. Poi adesso con il nuovo digitale terrestre non dovrebbe disturbare più. Chiederò ai vicini se gli sto entrando in casa del televisore, perché io ho tutto via satellite, quindi non la guardo più neanche il digitale, quindi no, non posso neanche verificarlo, ti dico la verità, non ne ho antenna di casa. È risaputo che se tu lo metti allo stesso livello dell'antenna potrebbe dare disturbi, ma se tu lo metti un po' più su non ci sono problemi. Giuseppe, buttaci tutto. È preferibile che ti fai un dipolo nel momento e con l'antenna ce la butti via, perché stai uscendo male. Perché adesso sto uscendo male. Però. Uno, due, tre. Quindi a scariche stai uscendo. Tutta mangiata la E così è meglio. Così va meglio. Tappa va meglio. Troppo. E magari i passaggi troppo lunghi non ce la fai lineare anche. Tappa, ma vai da Andrea, mi. Ha migliorato di brutto, da Santiago Cipri è arrivato a 9.20, cavolo, l'ha messa a brutto, deve essere in direzione della Ferrari. Tu dove sei già? Io sono dietro via Valdetta. Dai, tappa, tappa. Tappa. Andrea arriva benissimo qua, benissimo. Se si attrezza un po', si mette un microfono amplificato e cose, le donne sono così, non come sapere le scatole. E così è. Sono nate per quello. Mettono sempre il puntino sulla I, non ti vado di barluta. Cappa, e adesso piano piano, adesso sono un po' in accampamento, ma adesso ci piazziamo anche con sguscio. Dai, almeno ci sentiamo, Giuseppe, un po' più spesso. Oh Andre, perché non la metti direttamente sul tetto? Cappa, perché qua il tetto è privato, capito? Non è del condominio. E quindi o chiedo l'autorizzazione direttamente al padrone, l'area, diciamo, del tetto, oppure vedo. Però essendo quasi all'ultimo piano la faccio sporgente, la tiro un po' più su e forse ce la faccio uscire bene. Guarda, io se vuoi ti do tutte quante le leggi. C'è l'obbligo di farti passare per piazzare l'antenna, anche se praticamente ti deve far passare dentro casa sua. C'è l'obbligo di fartela piazzare. Ma questo non lo sapevo, ma anche se è un'area privata quella del tetto. Esatto, anche se lui c'ha il passaggio da casa sua, ha l'obbligo di farti passare. Ma questo non lo sapevo, allora posso eventualmente richiederlo e magari, come stavi consigliando, una Venom. Non da tutte le parti, cosa? Non da tutte le parti c'è l'obbligo. Guarda che io ho le leggi stampate da cosa? Dalla Gazzetta Ufficiale. E c'è scritto così, che ha l'obbligo di farti passare anche se ce l'ha dentro casa il passaggio. Vabbè, tu leggi quello che è la Gazzetta Ufficiale. Io, quando ero a Carbonazzi, a me non mi ha obbligato nessuno. Ho rotto con molta, ma molta educazione, mi ha chiesto se poteva piazzarla senza nessuna prepotenza, se poteva passare, potevo aprirle casa mia per farlo passare, a montare la parabola satellitare sul tetto. Siccome è stato molto educato e gentile, ho detto non c'è nessun problema, perché voleva le chiavi. No, io le chiavi non ve le do, vengo io, vi apro la porta, voi mi dite quanto ci state sul tetto, poi io vengo, controllo se avete fatto danno, se avete fatto casino, chiudo e vi togliete a mezzo le balle. Ma quella era un'antenna di televisore, non di baracchino. Io sto parlando di antenna di baracchino. Ci sono degli articoli di legge che io ho stampati, se non ci credete li faccio leggere, ce li ho stampati dalla Gazzetta Ufficiale e ci sono tutte le leggi di cui c'è scritto anche quello. C'è scritto che loro ti devono far passare per piazzare l'antenna sul tetto, anche se c'hanno il passaggio dentro il domicilio. Ascolta Gianni, adesso ti faccio una domanda. Se dovesse venire uno a abitare nel tuo palazzo, che c'ha il baracchino, deve entrare dentro casa tua, passare in camera da letto, perché deve passare il cavo, tu lo fai entrare. Non c'entra nulla, io non ne ho passaggio per salire sul tetto, però so di Antonio, tu lo conosci bene, che quando abitava in Viale Mamidi avevano il passaggio loro sul tetto, tanto è vero che la mamma saliva sul tetto e stendeva nel tetto, perché il tetto era loro e il passaggio era da casa loro. Però hanno sempre fatto passare la gente, questo anche Antonio me l'ha detto. Dice io problemi non ne ho per mettere l'antenna perché il tetto è nostro, però se mi chiedono dobbiamo farlo passare perché per legge bisogna farli passare. Tu stai parlando di legge condominiale, in statuto, in gazzetta ufficiale, quella è un'altra cosa Gianni, quella è un'altra cosa. Da Bonanima di Giampaolo Silvestro, anche i carabinieri aveva chiamato, antenna sul tetto, no, gliene hanno fatto piazzare, punto e basta, capito? è così, in certe circostanze la legge la puoi mettere in atto, in altre circostanze Gianni no, assolutamente, non è così come invece tu, c'è scritto nella Gazzetta Ufficiale che c'è diritto di montaggio, ma non diritto di passaggio, leggi bene. Tutti hanno il diritto di montare l'antenna, tutti, lascia perdere, noi radioamatori la possiamo montare anche nel treno in corsa con la base magnetica, io mi siedo e mi metto a parlare, ma non nell'aereo, su questo non ci piove, nell'aereo assolutamente vietato le telecomunicazioni. Ma la parte CB, banda cittadina, ha uno statuto che è in Gazzetta Ufficiale, dove molto, bisogna stare molto attenti a quello che si legge, che c'è scritto, non è come te, in certe circostanze sì, in altre no, capite? In case private o confinanti, ad esempio, e questo è tutto nella Gazzetta Ufficiale, in terreni confinanti, tu non sconfini il mio terreno per passare cavi o per montare un'antenna o in un muro confinante, io non te lo consento e tu non ne piazzi. E quando tu mi certi ignorante che lo fai per non bisticciare, allora fai così, però io Andrea, se non vuoi ce l'ho stampata una cosa te la faccio avere, se no te lo cerchi sul computer e lo vedi, diritti d'antenna si intitola, metti diritti d'antenna CB e ti scrive tutto quanto. Gianni, ma ti pare dopo 40 anni non conosco i diritti d'antenna, li conosco, non ce n'è problema, però purtroppo, come hai detto tu molto giustamente, quando trovi gente imbecille, dei diritti d'antenna tuoi, e della Gazzetta Ufficiale tua, non ne sbatte un cazzo, niente, capito, non ne sbatte proprio niente, questa è casa mia e tua antenna non li biazzi, il terrazzo è il mio e tua antenna non è più. Guarda, ti faccio un semplice paragone, quando io sono andato a abitare in via Pascoli, che l'ultimo piano, quindi il quinto piano più il terrazzo era di signor Solinas, che era un ex maresciallo della Guardia di Finanza, me lo ricordo come oggi. Ho fatto tutto, ho avvocato eccetera, al momento in cui dovevo piazzare l'antenna, e lì veniva il problema. Chi abita all'ultimo piano? Chi ce li ha le chiavi del terrazzo? Signor Solinas, cazzo. Già Gianfranco, che conosci molto bene, Gianfranco, quello che ci aveva il negozio lì di roba usata, insomma, Gianfranco mi ha toccato. Nonna abita a fianco a lui e ti posso garantire che è una brutta gatta da pelare. Vediamo Gianfranco, io chiedo, poi vediamo. Sono andato, io ho suonato il campanello, sono Solina, sono alti nel secondo piano, avrei necessità di salire sul tetto, sul terrazzo, perché terrazzo tanto di muretto, cioè terrazzo vero e proprio per cammini tranquillamente, per montare un'antenna, ma non se ne parla nemmeno, mi ha detto, io non le do né chiavi e non si permetta di suonarmi più il campanello, perché io, quella è casa mia e lei non piazza niente. Va bene, va benissimo, gli ho detto grazie lo stesso, mi tiro fuori patente e libretto di circolazione, mi faccio le fotocopie, vado in via Cagliari, io ho questo problema, mi ha detto, ah ci picchia, già è poco tosto questo signore, dove abiti? Guardano tutto, vabbè ero, perché non ho fatto nessun cambio, perché dovevo tornare a Carboazzi, è una cosa un po' lunga, aspetta che mollo. Ragazzi scusate. Vai Giuseppe, fate mollato, vai. Mi dite se mi sentite come prima, meglio o peggio, anche come segnale? Adesso Santiago 7, Radio 5 perfetto. Qua S9, Giuseppe, S9 Radio 5. Ma ti copio anch'io, Giuseppe, bacino, ma ti copio anch'io. Orizzontale col gommino puntato per passare. Direi che proprio la bomba di antenna è affidabilissima. Bene, bene. Ottimo Giuseppe, S9 Radio 5, ti ascolta anche Cristian. Già, mi fanno un... ho detto, ditemi cosa devo fare. Io sono animatore, devo montare un'antenna verticale per le VLU, un'antenna per gli 11 metri e il dipolo multibanda. metto basta direttiva, no nessuna direttiva, niente, perché è una cosa provvisoria, vuole rimanere 2-3 anni, non lo so, perché sto facendo lavoro nell'altra casa. E mi fanno uno scritto, controllo, documentazione, bim bum bam, e convoco l'amministratore del condominio di quella palazzina, che era Stefano, non mi ricordo, che forse tu conosci, c'è lo studio in via Pascoli, Molinari, Geometro Molinari. Allora, Geometro Molinari, allora ci conosciamo, stai così, così e così, metto, va bene, non c'è problema, i documenti sono in regola, ci parlo io prima con signor Solinas, antenne devo montare io, dopodiché chiamo l'autoscala e passo la furia, a me non me ne frega niente, non me ne affrutti nulla. È andato anche all'amministratore, no ma qui non se ne parla, è una cosa che disturba, guardi che questo signore ha una patente di Stato, è un radiomatore, signor Solinas, ragione, no ma io la legge le conosco, qui là, cioè non è che si manesce alla guerra finale, guardi che non è così, l'amministratore si è girato le balle, mi ha detto guarda facciamo una cosa, mi prendo la responsabilità, no, io non voglio nessuna responsabilità, io sono in regola e l'antenna va a piazzare, non voglio assolutamente manco, non me ne appunti nulla, niente, se no andiamo in tribunale, ma ti ho le chiavi di su perché faccio dei controlli, c'è la caldaia eccetera, ti apro io, quanto ci metto, tu la vedi, una mattinata faccio tutto, ho chiamato, mi hanno dato una mano, ho montato le antenne, cazzo già, quando ha visto le antenne mi ha denunciato, mi ha fatto fare una lettera dall'avvocato che io dovevo togliere le antenne perché era nel suo tetto, tu risposto gli hai, altrettanto gli ho risposto io, ci sono rimasto 3 anni lì. Vabbè, quando trovi queste persone qua sono ottuse, non vogliono sentire ragioni di nulla, lo sai benissimo, anche io nel mio palazzo non ero tanto propenso a farmene piazzare, ho dovuto raccogliere le firme e tutto quanto, no? Però intanto quello che dovevo fare l'ho fatto e sto continuando a farlo, mi sono fatto il doppio ore delle chiavi, ho fatto anche il furbo perché ho chiesto le chiavi a quello della mansarda dicendogli che dovevo regolare anche nel televisore e poi invece mi sono fatto il doppio ore, ho dovuto fare il furbo perché sennò mi prendevano per il culo. Vedi bene, cioè a volte andiamo a fare delle cose che siamo costretti a fare, io non volevo arrivare a quello, io ho montato le antenne, quando lui li ha viste, mi ha fatto fare l'avvocato, io non gli ho manco risposto, mai e poi mai. Quando veniva l'amministratore a prendere la quota condominiale, diceva Van Becker, ui, diceva vabbè sei andato, sì, e io mi fa la testa a pallone, qui e là, come mi ero permesso di fregatene, a futti dire. Sì, sei morto, non mi ha mai e poi mai detto manco ma io poi quando sono andato via ho tolto le antenne, ho tolto le staffe, ho stuccato tutti i buchi che avevo fatto, ho tolto i tasselli, stuccato, ci ho messo tutto in regola e sono andato via con molta tranquillità, ma per dirti che quando uno si punta, soprattutto queste passo, tu prendi a Natalino, ma che cosa ci vuole a montare quella? Lì ci vuole un po' di buona volontà, scendene quella, montare l'altra, sto stronzo, questo stronzo come si sta comportando? La sua la facciata è, e anche di Natalino la facciata, e cosa devi fare già secondo te? No, è più loro che sua, lui è in affitto, invece la moglie di Natalino la casa era sua, quindi dovrebbe avere più diritti, lui è solo in affitto lì. Il proprietario magari vuole, è lui che non vuole, capito? Si sta impuntando, ma fa dispetti, quello lì li butta le cicche accese, le tende, cosa, insomma ha fatto una macchia tottere, ha fatto tutti i colori, quindi non sappiamo com'è, cosa deve fare. Dice tu vai a pensare all'antenna, rischi anche tu perché quello lì è rissoso e di quelle rompiscatole, rompe le scatole anche a te. Avanti Andrea. Cappa, vi stavo ascoltando con attenzione. Sì, ma sono d'accordo sul fatto che bisogna essere sempre educati, chiedere per cortesia, alla fine è sempre un rompimento di scatole andare lì, però non dipende sempre da noi. C'è da dire che Sparviero ha le patenti e noi non abbiamo niente, e questo è anche un qualcosa che ci limita. E adesso vediamo, io inizio con una boomerang, poi se mi appassiono e magari mi interessa anche se proseguire sulla strada di San Piero vedremo. Vabbè, noi eravamo tutelati fino a poco tempo fa perché pagavamo anche una tassa, quindi come tu paghi sei anche tutelato. Adesso magari non siamo più tutelati perché non abbiamo più nulla, né concessione né tassa. Io la concessione c'ho la vecchia, quella che c'avevo ce l'ho sempre, però non vale più, non ci vuole più, per cui c'è anche la cosa di essendo più VL, però non sono cose che valgono più, capito? Oramai sono passate di moda queste cose. Io non capisco perché abbiano tolto la tassa quando guadagnavano da lì. Non capisco il perché l'abbiano fatto. Non lo so Gianni, questa è una cosa che ha deciso il Ministero, quindi non so esattamente cosa dirti, però ti ripeto che le leggi a volte sì ci sono ma non vengono applicate, capito? Perché uno che come è successo, ben sai, cioè non so se leggete, vedete le TV eccetera, ma a quello che a Cagliari ha preso in pieno un passeggino, l'ha spezzato in due e si è portato cazzo per 50 metri, un bambino di 18 mesi, ma come cazzo si fa? È fuori, ancora è fuori, in attesa di processo, ma io l'avrei legato a un palo, capito? Legato a un palo e fucilato, se no l'avrei legato al paraurti della macchina e trascinato per 100 metri come ha fatto quel bambino, eppure è fuori. E la legge è bella tosta, perché con omicidio stradale tu devi andare a fine in galera e ci devi rimanere dentro, e invece non la applicano. E tra l'altro era anche sui passaggi pedonali, oltretutto. E tra l'altro era anche senza patente, tra l'altro, capito? Tra l'altro senza patente, già ritirata per le stesse cose, capito? Nelle strisce pedonali, ma non ti vergogni, Stato non ce n'è, le leggi non vengono applicate, o se vengono applicate vengono subito tolte. Cazzo, quello che ha fatto la rapina, ma c'è anche scappato il morto, è cazzo in me, agli arresti domiciliari, ma di cosa siamo va vedendo? E tu parli di leggi, ma di quale leggi? Vabbè, dai, vi devo lasciare, vi saluto, che dopo potrei giù il cane e si è fatto tardi, dai. Ci sentiamo, riprendiamo magari un altro momento. Ciao, buona serata a tutti, ciao Andrea, ciao anche a Giuseppe, se c'è un ascolto, Claudio e tutti gli amici ascoltoni, dai. Ci sentiamo, buona serata. Ciao Gianni, piacere veramente di avermi ritrovato. Ciao, buona serata, alla prossima. Ciao, una passeggiata dal cane e mi ho voluto veramente uscire a fare due gocce d'acqua, ma penso che adesso non esca più. Ok, il cambio per te Andrea, ciao, buonasera, ben ascoltato. Scappa, ma che tu stai andando adesso, salvi o ti trattieni? E ancora qualche altro passaggio, poi vado via anch'io per la cena, sono già le 8:20. Ok, arrivi leggermente più forte di tuo fratello, eh. Avanti Giuseppe. Sì, spiegami una cosa, se spengo il lineare provo ad accordare l'antenna non mi accorda, com'è possibile? Se lo spegni non accorda, mentre invece se lo tieni acceso accorda. Giuseppe, c'è un disaccordo lì di quelli allucinanti. Che antenna stai usando? Poi sto usando una mini boomerang attaccata a un'asta di microfono sul terrazzino. Ascolta, dimmi la catena esatta però dei collegamenti, perché ho collegato l'accordatore, poi all'accordatore il lineare all'antenna. Mi sembra che c'è qualche errore, mi sembra che c'è un errore, aspetta, mi sembra che c'è un errore, ripeti. Allora, dall'uscita della radio ci ho attaccato l'accordatore, poi dall'accordatore entro nel lineare e dal lineare vado all'antenna. Allora, il passaggio esatto è il cavo di discesa dell'antenna, quindi quello che è agganciato dall'antenna va dove c'è scritto antenna a correttore, antenna rosmetro, antenna wattimetro, ok? Antenna al il connettore, antenna rosmetro, wattimetro o accordatore che sia. Il TX dell'accordatore rosmetro, wattimetro che sia dovrebbe andare ad antenna amplificatore lineare. Poi il TX del lineare va all'attacco al baracchino. Così l'hai messo? No, ce li ho invertiti. Allora aspetta che provo a modificare tutto, eh. torno fra un minuto di bianco. Hai capito quello che ti ho detto? Antenna ad, antenna ROS metro watt metro accordatore, è lo strumento. Il TX dello strumento va ad antenna lineare, il TX del lineare al baracchino. KK, ha copiato tutto, dai, faccio le inversioni e torno su. Se no non ce l'hai quasi diretta, non può mai accordare. Capa, quindi l'apparecchio per accordare va appena prima dell'antenna, no? No, appena prima l'antenna, l'uscita è l'antenna. Il cavo che è attaccato all'antenna, antenna, no? Il cavo, il 1058, quello che sia, va attaccata al connettore dove c'è scritto antenna delle ROS, metro watt, metro, allo strumento che tu hai. Poi il TX dello strumento va al il connettore antenna lineare e il TX del il connettore TX del lineare va lo spezzone al baracchino. Allora forse per quello che non riusciva ad accordare, perché c'era il lineare dopo il rosmetro prima dell'antenna. No, così no. KK, ascoltami, e l'esame per radioamatore è molto difficile? No, è come tutte le cose, un esame di Stato, un esame di elettronica, un esame di normative e leggi che appunto fanno parte delle telecomunicazioni che bisogna studiare, Andrea. Oggi come oggi penso che sia un po' più facile perché è online, quindi ti interrogano tu a casa tua e loro nell'ufficio del ministero, quindi sono 5 domande, devi rispondere, sei promosso. Le ha fatte da poco un CB di Sassari, è diventato radioamatore un paio di mesi fa, 3 mesi fa, e quindi va bene, io ho assistito, è abbastanza facile, però chiaramente devi studiare. Ma è orale, quindi non è scritto. Cosa? È orale l'esame, non è scritto. No, è orale, scritto non c'è più, è orale online. Tu col computer a casa tua, loro ti danno giorno, data e ora, rimani lì a casa tua, ti metti in videoconferenza con loro, c'è una commissione e ti interrogano, dopodiché si ritirano per deliberare un 10 minuti, si ricollegano con te e ti danno l'esito, tutto in diretta. Ma interessante. Vai Giuseppe. Non so se era Giuseppe. Giuseppe, hai detto poco fa? Sì, ma mi arrivi molto molto peggio adesso, Claudio. Allora c'è qualcosa che non va, perché l'antenna, il cavo dell'antenna deve essere attaccato ad antenna strumento, tu c'è l'accordatore, quindi dove c'è scritto antenna accordatore, il TX dell'accordatore va al connettore antenna lineare e il TX del connettore TX del lineare va al baracchino. Sì, adesso è collegato così, forse ti arrivo anche più basso e tu mi arrivi più basso. No, il tuo segnale è stabile, che diciamo che adesso stai andando sicuramente con la potenza giusta e quindi sei saturo. Guarda adesso se va meglio un pochettino. Adesso il segnale è calato e non sei più saturo, quindi il lineare sta funzionando adesso. Calma, aspetta che spengo il lineare, riaccordo senza lineare e vediamo un po' il passaggio. Io ti sento bene questa volta, Giuseppe, molto meglio di prima. No, adesso ti sento basso. Appunto, c'è un disaccordo, se non è qualche spezzone lì. Magari è qualche spezzone che non è messo bene, da. Vedi che c'è spezzone, adesso ti sento benissimo, però il segnale è 5, quindi sei calato, quando invece attacchi aumenti, però diventi saturo, quindi il segnale sta funzionando, il collegamento è giusto. Ma anche prima stavo uscendo, soltanto che adesso c'ho tutto al massimo, adesso passo così calo un pochettino. Ma c'è qualche problema di spezzone, connettore, qualche PL, perché il segnale sale e scende. Claudio, io come sto uscendo? Un pochettino, sono 9:10. Se riesco a migliorare qualcosa. Adesso vai bene, ad esempio, non so cosa hai toccato, sei nuovamente a 9. Ho riattaccato il lineare. Vedi che funziona, cioè da 3 passi a 9, funziona. Ma tu mi arrivi Santiago 3, prima eri 9. Perché c'è qualche disaccordo, qualcosa che non va in quel collegamento, in quel, sicuramente qualche PL in corto, non lo so. Qua aumenti da 5 vai a 9. Mi cali di radio, si mangia la radio, a volte esci bene, a volte esci male, c'è qualche cosa che devi vedere bene, Giuseppe, è tutto da mettere a posto lì. Lo so, è 20 anni che non lo uso questo apparato, l'ho acceso ieri dopo 20 anni. Ma un po' di manutenzione prima di usarlo, Giuseppe, non è che pretendi di avere tutto